ogni lunedì è un'iniziativa, inizialmente ci occupiamo chiaramente di libri e il nostro punto centrale, la nostra attenzione si concentra sempre su autori locali e di grande respiro, però come questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Umberto Gandini, che è locale per il fatto che abita qui, ma insomma chiaramente la sua fama è molto più ampia. Ringrazio tantissimo Sandra Bortolin, che ha accolto con entusiasmo, con grande piacere, ecco, la nostra proposta di presentare questo volume, di aiutarci e di accompagnarci in questa serata. Ecco, è un nuovo aspetto di Umberto Gandini che siamo curiosi di conoscere, giusto per dare il polso della situazione. Questo libro, di cui noi abbiamo 3 copie da dare in prestito, non riusciamo ad averlo sullo scaffale, e da quello abbiamo catalogato che queste 3 copie non riusciamo ad averle sullo scaffale. Mi altre piace, ecco, vi dico solo questo, che piace e dobbiamo continuamente prenotarlo e sollecitare le persone che restituiscano le copie per dare la possibilità ad altri di leggere. E spero che abbia altrettanto successo, chiaramente, anzi sono sicura, da un punto di vista della commerciale. Vi ringrazio. Ci sarà poi sulla sedia, avete trovato anche l'appuntamento di giovedì, questa settimana siamo impegnati 2 volte, in 2 serate diverse. Vi ringrazio ancora e vi porto i saluti dell'assessore Tomasini. Grazie a voi intanto, buona serata. Allora, io ho questo compito gradevolissimo di presentare Umberto Gandini e mi chiedo se... Insomma, c'è bisogno di presentazione. Umberto Gandini è un giornalista di lungo corso e io ho avuto il piacere di lavorare con lui 10 anni alla Coadige. Io lavoravo in cronaca, lui lavorava in interni esteri, si occupava della pagina di cultura. E, giornalista, traduttore. Io, grazie a lui, 30 anni fa ho conosciuto Elias Canetti, ma ha tradotto Fassbinder, Brecht, Bernard, Kafka e direi un più importante traduttore italiano dal tedesco all'italiano. E in più non c'è stata commedia, non c'è stata tragedia, non ci sono stati attori o compagnie che siano arrivati in questi decenni a Bolzano che lui non ci abbia fatto così conoscere: attori, compagnie, registi, interviste, giornalista di teatro per eccellenza della nostra città. E ci ha riservato questa sorpresa di creare... Per sentire? Sì, adesso mettiamo il microfono. Sì. Solo per sentire? Sì, parlo troppo piano, vero? Sì, certo. No, per me è perché io sono troppo anziano, secca l'aria e mi si secca la lingua. Mi secca l'aria. E adesso ci ha regalato questa bellissima sorpresa di questo Marloven, questi 8 racconti... di questo personaggio bolzanino. Di questo io vorrei parlare fra un attimo, perché la mia è una presentazione, però la presentazione della presentazione io l'ho portata in DVD ed è un servizio, non è un'autocelebrazione, è soltanto per introdurre e farvi vedere i luoghi che tutti voi conoscono, ma così vediamo un po' dove lui ha pensato di far vivere questo personaggio dell'ex poliziotto Marlowe. E adesso vediamo questo libro lì e poi introduciamo il libro. Questo servizio è andato in onda nel settimanale della TGR. Ah, c'è il DVD. I lettori di Gialli conoscono città e luoghi seguendo le orme degli assassini e i passi degli investigatori. La Parigi di Simenon, la Barcellona di Montalban, la Marsiglia di Izzo, la Svezia di Mankel, la Sicilia di Camilleri e ora la Bolzano di Umberto Gandini, giornalista e blasonato traduttore di importanti autori tedeschi. I primi 8 racconti, ed è già uno di noi Giovanni Ruvidotti, soprannominato dagli ex colleghi della questura Marlowe, a furia di sentirlo citare l'investigatore Marlowe di Raymond Chandler. Le indagini abusive di Marlowe, investigatore precario. Chi è Marlowe? Okay. Questa domanda resta. Il problema è giallo. Ma che giallo è se si svelano, se si danno le risposte subito, non è un giallo. Io sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei, va bene. Scusate, cerco subito. Mi auguro che ci sia tutto. Queste sono le situazioni dove. È saltato. Un giallo. Un giallo. È classico delle Madonna. Un giallo nel giallo. Ecco, se vuoi fare anche a meno, eh. No. Era solo per farvi vedere. Allora. Ah, può tornare un attimo. Ah, se può. Perché manca la domanda. Quando era ancora in servizio. Ma io direi e scala Bolzano dietro ancora? Uh-huh. Ogni tanto si sposta, questo è quasi già lì. Ecco, qui ci siamo. È vero, in realtà l'hanno tenuto sempre dietro la portella. Forse ancora un pelino. Perché no. Così vediamo i posti prima dove di sentirlo dire, citare Marlo. L'investigatore Marlo di Raymond Chandler. Le indagini abusive di Marlowe, investigatore precario. Chi è Marlowe? Marlowe è un poliziotto in pensione che avrebbe voluto fare il poliziotto davvero, in realtà l'hanno tenuto sempre dietro lo sportello dei passaporti. Quando va in pensione, l'opportunità di occuparsi di piccole inchieste. Un solitario un po' cinico come il vero Marlowe di Chandler. Sì, però più sfumato, ecco, non è un uomo così vissuto. E la collana si intitola I luoghi del delitto. I casi gialli di cui si occupa questo piccolo investigatore sono ambientati tutti a Bolzano, Bolzano e dintorni, con una puntata a Merano, poi ogni tanto si sposta, questa è la sua città con tutte le sue caratteristiche, la presenza dei tedeschi, la presenza degli italiani immigrati e così via. Ma non è la Bolzano pittoresca, la Bolzano turistica, è una Bolzano diversa, quella vera. Qui per esempio siamo nei quartieri popolari. In quale casa potrebbe abitare Marlowe? Ma io direi una di quelle lì, una di quelle laggiù, perché è un condominio, ha un mini appartamento preso col mutuo quando era ancora in servizio, abita qui da solo, però quando esce di casa va a piedi, va verso il centro. Arriva al massimo fino in Piazza Walter oppure le passeggiate sul Taller. L'appuntato Marlowe non ha un ufficio e viene al bar della Doris che gli fa un po' da segretaria. Il bar era qui. Una volta era qui, c'era un piccolo baretto molto modesto, adesso è un bel caffè elegante. È un caffè che a Bolzano esiste ancora in tante versioni. Ci sono questi caffè dove i pensionati vanno, passano le ore, compilano la schedina del Totocalcio, fanno la corte alla barista pur avendo 70 anni a testa. È un misogino, diciamo, come lo è Marlowe di Chandler. È il destino che proprio nel suo bar abbiano fatto un caffè. Un caffè femminile, sì. Non me ne ero accorto, non lo sapevo. La legge è contraffatta. Marlowe è malinconico, individualista, soprattutto umano e quindi poco contemporaneo. Da lettore di gialli ultimamente era un poco seccato dall'eccesso di violenza. Troppi morti, troppo sangue, troppa brutalità. Se uno non ammazzava 15 persone, non cuoceva la nonna, non sembra. E allora ho provato ad andare nella direzione contraria. E ho l'impressione anche che lei privilegi l'enigma rispetto alla soluzione dell'enigma. Certo, la storia è quella cosa più bella. E sono storie relativamente brevi. Sono tutte unite dal personaggio, dalla città di Bolzano, dall'ambiente in cui si svolgono, dal personaggio che va in giro facendo queste minime ricerche, queste minime cose, perché lui non è autorizzato a investigare, non può fare niente, insomma. Però si fidano di lui perché è un uomo di buon senso. E noi ci fidiamo che Umberto Gandini non ci faccia aspettare troppo per le altre storie dell'investigatore abusivo. A presto, Marlowe. colonna sonora del Lingua Bio. Ecco, allora, questa era l'introduzione dell'introduzione. Quindi abbiamo Bolzano che ha messo una bandierina, cioè adesso su Bolzano vi è la bandierina sul mappamondo dei gialli e dei giardisti, perché ogni c'è questa cartina letteraria in cui c'è la bandierina sulla Sicilia con Camilleri, c'è la Marsiglia di Zo, c'è la Milano e Scevarnenco, c'è Mankel con la Scania, la Scandinavia, Agatha Christie e via via. Adesso c'è una bandierina anche su Bolzano, perché anche noi abbiamo il nostro investigatore privato, un investigatore precario. E Umberto Gandini ha creato questo personaggio così umano, è uno di noi Marlowe, Rubi Dotti si chiama, è un ex poliziotto in pensione che sognava di fare l'investigatore, ma di fatto tutta la vita l'hanno lasciato ai passaporti, e lui così ha dato sfogo al suo desiderio di fare il detective leggendo i libri di Chandler. E Chandler è il suo scrittore preferito e lui vive il mito di Marlowe, e tant'è vero che lo cita quando ancora era in attività. Marlowe avrebbe fatto così, Marlowe faceva questo, Marlowe avrebbe detto, e i colleghi, che ovviamente non leggono evidentemente Chandler, l'hanno soprannominato Marlowe. E lui, per arrotondare la pensione di ex poliziotto, fa queste piccole indagini, ma cose molto semplici. Per chi ha letto il libro ha visto, si tratta di cercare di capire chi ha ucciso un animale, di capire qualche strano giro, non troppo malavitoso, ma che insomma coinvolge alcune persone, e lui non ha contatti con la non è il grande detective che risolve i casi perché ha contatti con la malavita oppure perché ha una squadra di investigatori, no, lui camminando per Bolzano, perché è un signore di una certa età, quindi ha problema del colesterolo, dei trigliceridi, di fare un po' di movimento, e quindi lui cammina sempre a piedi, proprio in via eccezionale prende il motorino, e percorrendo questa città che non è la città, diciamo, la Bolzano turistica un po' stereotipata che noi vendiamo fuori dei nostri confini, è la Bolzano nostra, cioè la Bolzano di noi che andiamo in Piazza Walter per andare al caffè, è la Bolzano di Don Bosco, di Via Milano, insomma lui ci ha mostrato dove quel cortile dei condomini era alle spalle di Via Milano, e quindi questo personaggio così umano che richiama effettivamente Marlowe, hanno molte cose in comune questi due personaggi e questi due scrittori, Chandler e Gandini, lui si scalmisce. Chandler ha creato Marlowe in una Los Angeles, io non sono mai stata a Los Angeles, però la conosco perfettamente, avendo letto i libri di Chandler, conosciamo, per chi ama Chandler, conosce le vie di Los Angeles, la salita verso le colline, cosa c'è dietro la scritta Hollywood, il famoso parcheggio dove si vede giù la città, vicino in altri scrittori più contemporanei, giallisti, ci hanno insegnato che vicino a questo belvedere c'è l'ex villa di Madonna, ma insomma ai tempi di Chandler non c'era. E quindi Los Angeles degli anni 40-50, questo investigatore elegante ma solitario, circondato di belle donne. Ecco, il nostro Marlowe sta a Bolzano in questi anni, non è circondato di belle donne, ma ha una sua, diciamo, un suo affetto, è una vedova di mezza età come lui, insomma, che gli scalda il cuore, quindi è un solitario che non si è mai sposato, però al suo tempo ha qualcuno che insomma gli scalda il cuore, e però sono uniti da questa sottile vena di malinconia, credo, vero? Per quanto un certo disincanto anche forse li unisce, e ovviamente non che siano delle fotocopie, ma Marlowe è un po' l'ombra cinese contemporanea di Marlowe, e è un personaggio molto umano, personaggio che ti entra subito nel cuore, e Se, e poi, come diceva nell'intervista Umberto, io leggendo questo libro all'inizio sono stata subito conquistata dal personaggio, però mi sono anche detta, perché, gliel'ho anche chiesto, perché oggi, dove veramente la tendenza del giallo è tutt'altra, è quella di, ci sono storie anche molto violente, molto intricate, dove bisogna arrivare per forza ad una soluzione, l'enigma sì c'è, però insomma è condito da, da situazioni anche molto così, colpi di scena, e tutto invece molto tranquillo nella, nella, nei racconti di Gandini. Allora gli ho detto, come mai un po' questo andare controcorrente? Lui mi ha dato una risposta che io ovviamente ho dovuto sintetizzare moltissimo, ma che vorrei che lui adesso ci mi rispondesse per esteso. Perché ha scelto di creare un personaggio così un po' controcorrente, non sanguinario? Perché sono un bastian contrario di natura. Andare controcorrente, cercare di fare qualche cosa di diverso dalle tendenze, quindi cercare qualche cosa, niente sangue, niente botte. Marlowe fa pugni e prende tanti pugni soprattutto, invece il mio Ruidotti è ormai fuori da queste situazioni qui, e quindi botte non ne dà e non ne prende più. Io vorrei essere abbastanza chiaro a questo punto, io sono molto consapevole dei miei limiti, io non scrivo come faceva Gramsci, che era un sardo che però sapeva il tedesco, e diceva a questo punto io devo scrivere für ewig, per sempre. No, io a me basta scrivere per una stagione. Io sono, i greci dicevano gnosis auton, Socrate diceva conosci te stesso, io conosco i miei limiti, sono quelli, non scendo nel lagone letterario, la mia non è literatura, è narrativa di intrattenimento, spero di far passare tempo a qualcuno. Nello scegliere un personaggio simile al Marlowe chandleriano, però su un livello bassissimo, senza tutti i condimenti di sangue e di violenza, io però ho seguito una cosa, alla quale ci tengo, perché insomma a un certo punto uno... nella letteratura anglosassone c'è un qualche cosa che ricorre in tutto l'arco della letteratura anglosassone fino ai nostri giorni. Ed è la storia del cavaliere che su un cavallo bianco nel Medioevo arriva, salva la fanciulla dal drago e l'aiuta. Questa leggenda che è presente nella letteratura anglosassone la si ritrova pari pari nell'epopea western, per esempio. Arriva il cavaliere della Valle Solitaria, non necessariamente Alan Ladd, ma un altro, arriva in un villaggio dove c'è un cattivissimo che torteggia una vedova, lui l'aiuta, ne ammazza un po', alla fine certe volte parte a bordo del suo cavallo e se ne va. Nel giallo californiano, il giallo hard-boiled, come dicevano, cioè quello solo, quello cattivo che comincia con Dashiell Hammett, c'è la stessa struttura. C'è un uomo tendenzialmente solitario, tendenzialmente solo, che è chiamato a risolvere dei problemi e ad aiutare delle persone deboli a sottrarsi a delle situazioni di prepotenza. Questo cavaliere solitario ha un suo codice etico, non consegna il delinquente alla giustizia perché questo è il suo mestiere, lo fa se lo ritiene opportuno, certe volte lo ritiene che dopo tutto abbia già scontato il male che ha fatto e non lo consegna alla giustizia. Ecco, il mio Marrove in piccolo fa le stesse cose, gli incaricano di fare delle cose minime, a un certo punto scopre che c'è una moglie che è scappata al marito, il marito lo assume perché gliela ritrovi, lui gliela ritrova ma non gliela ridà, perché si rende conto che la debole della situazione è lei, e allora non gliela dà. Quando è sempre stata... Se non sbaglio anche il contrario. Sì, in un altro caso il debole è lui, in un altro caso il debole è lui, non lo restituisce alla sua moglie, perché si rende conto che lei è la persona più forte. Ecco, questa scelta del debole e schierarsi sempre dalla parte del debole è un così, è la cosa che io ho copiato, diciamo, da questo filone della letteratura anglosassone. Cose piccole, diciamo, però vorrei dire, ecco, che non niente di clamorosamente ambizioso, però divertente. Uno degli interrogativi dei giallisti è cosa si privilegia, l'enigma o la soluzione dell'enigma? Ah, l'enigma, il personaggio soprattutto. E il personaggio, sì, la soluzione può essere anche certe volte deludente, oppure non venire affatto, o essere raggirata. Ma è la storia, la ricerca, il personaggio e le piccole cose che uno fa per cercare di riuscire a venire a capo di un mistero. Un mistero che poi certe volte sono cose proprio banali. Comunque Malove è uno di noi, uno con i nostri sentimenti, un uomo maturo che arrotonda la pensione, come dicevamo prima. Vedo che Umberto sta tirando fuori delle carte. Cos'è? Il passato o il futuro di Malove? Io mi rendo conto che molti hanno già letto il libro, quindi queste storie le conoscono già. E quindi andargli a leggere un'altra volta non ha molto senso. Allora io mi permetterei, visto che leggere devo, vi leggo 10-12 pagine di un racconto che non è compreso in questa raccolta, lo sarà nella prossima. E spero uscirà, così almeno vi racconto qualcosa di nuovo, no? Ecco, non ci hai fatto aspettare molto, come dicevamo nel servizio. Ma no, non uscirà. Adesso farò delle altre cose, ma fra un paio d'anni verrà fuori una nuova raccolta. Bene, allora sempre che riesca a campare fino ad allora. Allora, se mi date retta, i supermercati sono sicuramente una comoda istituzione, se non altro perché hanno razionalizzato e sveltito il problema del fare la spesa. Per me hanno non un solo, ma grave difetto, quello di costituire una continua tentazione. Girando fra i banchi e gli scaffali sono assalito, quasi a ogni passo, da voglie che non posso permettermi di soddisfare, come pure mi piacerebbe, questo per due ragioni. Innanzitutto sono quasi sempre voglie in clamoroso e mi viene quasi da dire irridente contrasto con il mio regime dietetico. Se mi cade l'occhio su qualcosa che mi attira, che mi stimola la fantasia alimentare, i succhi gastrici, 99 volte su 100 ha troppe calorie, troppi grassi, troppi zuccheri o qualche altra cosa di troppo rispetto alle regole che mi martella nel cranio quel topo grigio che è la mia dottoressa. Vedo splendide confezioni di dolci o di gelati, mi viene la colina in bocca, distolgo l'attenzione per non soffrire troppo e quelle, mi sembra, sghignazzano alle mie spalle dicendomi «Vecchio citrullo malandato». L'unica soluzione sarebbe quella di aggirarsi costantemente fra i detersivi. Se non che io vado al supermercato anche per comprare latte e riso, pasta e verdure, soprattutto verdure, mi raccomando, la dottoressa. E quindi non posso fare a meno di espormi agli inviti che occhieggiano da ogni dove. L'altra ragione per cui non posso permettermi di indulgere a certe tentazioni è che per lo più costano parecchio. Mentre io devo tirare a campare con la taccagna pensione di un graduato della polizia trattato schifosamente male da quello Stato di cui sono stato per 43 anni fedele servitore. Tutte queste considerazioni me le ha suggerite un tubetto di maionese. Quanto a prezzo sarebbe sicuramente alla portata anche della mia pensione, ma parole dalla medichessa costituirebbe mangiata un attentato alla mia salute. E dire che a me la maionese piacerebbe moltissimo, esattamente come mi piacciono i gelati e i dolci. Sospirando, ripongo il tubetto dove l'avevo preso e nell'abbassarmi per rimetterlo a posto, la noto per la seconda volta. Ho proprio l'impressione che mi stia seguendo. È una donna più o meno della mia età, anzi forse un po' più giovane, avvolta in una palandrana marroncina, di foggia decisamente non adatta a sottolinearne le eventuali venustà. Ma questa signora di venustà non ne ha, o meglio, se le ha, le tiene molto ben nascoste. Piatta davanti e piatta di dietro come il mare di Lignano Sabbiadoro nei giorni di bonaccia. Perché mi viene in mente Lignano Sabbiadoro proprio adesso e in questo contesto? Perché ci sono stato relativamente da poco, in vacanza per 10 giorni con la Norma, grazie a un premio che mi avevano dato e che ci ha permesso per la prima volta nelle nostre magre vite di andare in ferie anche noi. La Norma, ve l'avrò sicuramente già raccontata in una qualche altra occasione, è l'ancor formosa madre di 3 figli maschi adulti, nonché vedova di un poliziotto la quale vorrebbe riaccasarsi con me che sono scapolo da sempre. Io invece non ci tengo affatto ad accasarmi né con lei né con un'altra, sto benissimo da solo. Però ho anch'io, come tutti gli uomini e tutte le donne con le ghiandoline a posto, certe esigenze intime da soddisfare. E quando queste smanie mi assalgono vado dalla Norma che di solito ce l'ha anche lei. Anzi, per la precisione, il più delle volte la Norma è che viene da me, perché a casa sua, anche se 2 dei suoi 3 figli sono già sposati e abitano altrove, c'è sempre il rischio di essere sorpresi dal terzo, che vive ancora con lei, in atteggiamenti e contorsionismi che normalmente agli occhi della prole non si confanno ad una mamma. Durante questa vacanza goduta in ogni senso insieme, abbiamo, spero, definitivamente constatato che a letto filiamo d'amore e d'accordo, ma che le nostre affinità finiscono lì. Se dovessimo sposarci o metterci a convivere, cominceremmo a baffare quasi subito, esattamente come stava per succedere anche nella pensioncina di Lignano Sabbiadoro. A 65 anni quasi, uno non può più cambiare. Lo dico per me e lo dico per me. Io, per esempio, non sono abituato, né mi abituerò mai, credo, a trovare nell'appartamento o casa o stanza d'albergo in cui abito il bagno occupato. Dicevo di quella che mi dà l'impressione che mi stia tampinando. Molto inappariscente, truccata appena appena. I capelli sono biondi, è vero, ma oggi li portano tinti quasi tutte. Sono diventati un vezzo, semmai, quelli bianchi. Non mi sembra che abbia le smanie, eppure c'era proprio con me. La prima volta che l'ho osservata ero davanti ai banchi della frutta, incerto fra le offerte speciali. Kiwi o mele? L'ho vista ferma col suo carrello in atteggiamento altrettanto irresoluto. Ma il suo problema doveva essere diverso dal mio. Non guardava la frutta, sbirciava a me. Quando mi sono mosso, dopo aver preso una confezione di kiwi, si è rimessa in movimento anche lei senza aver preso niente. Nel cestello aveva solo poche cose. Ora che sto rinunciando per l'ennesima volta alla maionese, lei è qui, a due passi da me, ferma davanti alle scatolette del tonno. Ma non gliene frega niente del tonno, evidentemente, sogguarda che cosa sto facendo io. Facendo finta di niente, la scruto di nuovo, dalla testa ai piedi. No, non è proprio il mio genere di tardona, di quelle cui ogni tanto do la caccia all'insaputa della norma, quando, sempre più di rado, sono preso dalle smanie capricciose e vorrei tanto trovarne una nuova che me ne spegnesse. Ora poi che la norma in vacanza mi ha spompato, di smanie non ne ho più neanche l'ombra. Che sia il caso di rivolgere la parola e di dirle signora ripassi fra una settimana o due? No, ovviamente, perché potrei anche sbagliarmi sulle sue intenzioni. Spingo il carrello verso il banco dei latticini in cerca dello stracchino con lo sconto, che è uno dei pochi formaggi che la dottoressa mi concede. E lei? Dietro. Ferma lì a due passi che mi osserva di sguincio, come se fossi una mozzarella. Anzi no, un provolone stagionato. Vado alla cassa, mi metto in fila e quella continua a marcarmi come un terzino mastino. Pago, infilo i miei acquisti nel sacchetto di plastica, esco e riflessa nella vetrina la vedo che sta per raggiungermi quasi di corsa. Ma cosa gli faccio io alle donne? Li correggo, a questa soltanto, perché le altre, a parte la norma, neanche si accorgono di me. Senta! Si è fatta coraggio, mi ha abbordato, sì, ho bisogno di lei. Devo confessarle di brutto che non sono le condizioni fisiologiche adatte per soddisfarla, che ho dato tutta la norma nei 10 giorni di fuoco che abbiamo passato a Lignano Sabbiadoro? Lei è il signor Marlowe, è vero, l'investigatore. Ora che la guardo più direttamente comincio a capire, un po' deluso, che non deve essere stata attratta dalle mie qualità virili o estetiche. Non c'è nessun lampo di desiderio nei suoi occhi, solo preoccupazione e imbarazzo. Ma non per ragioni connesse con la dialettica dei sessi. Questa in me non cerca il maschio, cerca il detective semiclandestino. Vuole che le faccia un lavoretto, però non di quelli, sporcaccione, che pensavo prima. Io non ho la licenza di investigatore, le spiego. Io più che investigare faccio delle semplici verifiche, degli accertamenti, cosette alla buona. Appunto, non le chiederei altro. Potremmo andare da qualche parte a parlarne alcuni minuti in pace. C'è un caffè qui dietro l'angolo, se ricordo bene. Ricorda benissimo, ci andiamo continuando a lumarci. Io per tentare di indovinare che cosa potrà mai volere da me, e lei per capire se sono proprio l'uomo che fa per lei, ma non in quel senso lì, ormai mi sembra chiaro. Nel caffè ci sediamo in un angolino, lei ordina un succo di pera e io un decaffeinato. Sono le 9 del mattino di una bella giornata di fine settembre. Fa ancora abbastanza caldo, ma qui e là si colgono già i segnali che dicono che l'inverno, quel dannato, sta per irrompere ancora una volta nelle nostre vite. Mi dica, signora, Refatti, Francesca Refatti. Piacere. Non so da che parte cominciare. Dal nocciolo del problema, direi. Va bene. Mi spiano. Non mi sembra una paranoica. O una che si alza la mattina, entra nel bagno e trova un marziano addormentato nel bidet. Dove, domando? Per strada o... No, no, dalla casa di fronte. Guardoni? Non saprei come definirli diversamente. È la prima volta che mi capita un caso del genere. Di lavoretti ne ho sbrigati parecchi ormai. Da quando sono in pensione ho trovato il modo di fare ciò che non ero mai riuscito a fare ai tempi in cui ero un poliziotto in servizio attivo. E cioè il poliziotto non solo di nome ma anche di fatto. Prima di andare in pensione ero solamente un burocrate con il deretano quadrato a furia di star seduto davanti a uno sportello. E invece ora investigo a tutto spiano anche se di straforo e a modesto pagamento. ma senza fatture o ricevute, badando a non farmi scoprire dal fisco. Si spieghi meglio. Io sto laggiù in quella casa al quarto piano. Mi indica un grigio palazzone che è a un centinaio di metri da dove siamo noi, ma molto non molto ingentilito da alcuni abeti e da altri alberi di alto fusto che crescono nella fascia di verde che ha attorno. Non siamo distanti da dove abito io, e cioè in quella che a Bolzano una volta chiamavano, specialmente i tedeschi, Shanghai. Dopo decenni di dilagare selvaggio della città non siamo più in periferia. Lo potremmo definire un rione piccolo borghese, anche perché pare che al giorno d'oggi gli operai non esistano più. E la spiano da dove, signore? Dalla casa di fronte, che da qui non si vede, è più bassa di quella in cui sto io. Mi guardano da una specie di soffitta. E la spiano come, signora? Possibile che le debba tirar fuori ogni parola? Coi binocoli. La guardo di nuovo attentamente. L'esito dell'esame è positivo per lei. Sembra una persona sensata. Dico allora, ha qualche segreto da nascondere? Gira nuda per la casa. Arrossisce violentemente e mi lancia uno sguardo oltraggiato. Ma per chi mi ha presa? Mi parli di lei allora, se qualcuno la spia avrà delle ragioni per farlo, sicuramente riprovevoli, non discuto, ma perché lei e non un'altra o un altro? Non lo so, me lo scopre, è per questo che mi sono rivolta a lei. Quanto prende? 50 euro al giorno più le spese. Da spendere in questo caso ci sarà ben poco, a me basta che convinca quegli individui a smetterla di importunarmi. Sono uomini? Credo di sì, ma non ne sono certissima. A volte ho l'impressione che ci sia di mezzo anche una donna e comunque almeno un paio di uomini, tutti coi binocoli. Uno anche col cannocchiale. Ne è sicura? Assolutamente. Ha mai provato a dir loro di smetterla? Certo, ma non si fanno trovare. Oppure chi è in casa non apre. Forse sono timidi, inibiti, ma che timidi, impertinenti, sono sfrontati, dei maniaci. Non so come definirli altrimenti. Forse doveva insistere, bussare violentemente sulla porta di casa, non so. Per essere franco ho anche paura. Persone che si comportano in quel modo non sono tutte giuste di testa. Come dicevo, mi parli di lei, signora, per comprendere le ragioni dei comportamenti fastidiosi altrui è bene cominciare sempre da se stessi. Apprendo che è un insegnante di scuola media inferiore a riposo. Erudiva i pupi in italiano, storia, geografia e altro ancora. Da 5 anni non insegna più, vive da sola in un appartamentino di proprietà. Proprio come me, dico per incoraggiarla, nubile? No. Vedova? No. E che cazzo? Lo penso ovviamente, mi guardo bene dal dirlo. Delle insegnanti di scuola media inferiore non ho ricordi particolarmente simpatici. Tremende e rompevalle. Sono sposata, ma mio marito se n'è andato, mi ha lasciato. Per dirla tutta è scappato 15 anni fa con una allieva. È un insegnante anche lui, ma non vedo cosa c'entri il mio stato civile con... Potrebbe essere lui. Folle di postuma gelosia, si piazza con un binocolo nel soffitto di fronte e spia per vedere se lei è lì che... Non so come dire. Non dica sciocchezze. Non so se offendermi o meno, opto per un atteggiamento di superiore indifferenza. Abita a Bolzano questo marito fuggitivo? No. Medito un altro momentino e poi, perché non accosta le tende? Le avrà le tende alle finestre di casa sua? Immagino, non solo accosto le tende, abbasso anche le saracinesche, tengo la luce, ma quelli continuano a spiarmi lo stesso, quei binocoli puntati. Ma se non posso più vedere niente, me lo sono detto anch'io. Eppure quando sbircio per verificare sono ancora lì. Uno alla volta, certe volte sono in due, a tre, anche tre ne ho visti. Tutti con i binocoli o con i cannocchiali. Questa deve essere esultata. Passi per uno, ma non è possibile che tre persone addirittura sciupino il loro tempo per goderne la visione. È una tipa anonima, di quelle che neanche si notano. Bisogna che ti pestino un piede o che ti fermino per strada, come questa ha fatto con me, per accorgersi che esistono. Proviamo a considerare la situazione diversamente, dico. E se quelli invece che lei spiassero una sua vicina di casa, una che abita sopra o sotto di lei, me ne sarei accorta. Non sono mica scema. Non ancora. No. I binocoli sono puntati sulle mie finestre. Quali? Quelle del soggiorno e della camera da letto. E la molestano in altro modo? No. E lei allora perché mi scusi? Non se ne frega. Lasci che guardano e che buon pro gli faccia. Ci ho provato, ma non riesco a far finta che non ci siano. È una cosa esasperante, mi spiano anche di notte quando dormo. Ma no, ma sì, l'altro ieri mi sono alzata che erano le 3 di notte, non accendo la luce, mi avvicino alla finestra, scosto appena la tenda, sollevo di qualche spiraglio la saracinesca, guardo e sono lì, in tre, con i binocoli e il cannocchiale, sì. Eppure, dico davvero, non si direbbe che le manchi una mangiata di hotel. L'aspetto sembra di una donna normale ed equilibrata. Se mi sta dando i numeri lo fa in modo molto persuasivo e ragionevole. La spiano sempre? No, qualche volta non ci sono, qualche volta lo fa uno solo. Non c'è nessuna logica nel loro comportamento, però se volevano sconvolgere la mia serenità ce l'hanno fatta. Ormai ho i nervi a fior di pelle, non riesco a muovermi per casa senza guardare continuamente fuori dalle finestre per vedere se sono lì. Se ci sono mi arrabbio, se non ci sono quasi mi allarmo. Ma si è rivolta alla polizia, ai carabinieri. Mi hanno detto che loro non possono farci niente. Guardare fuori dalle proprie finestre, anche con binocoli, cannocchiali o telescopi, non è reato. Anzi, dicono che è un diritto. Finché quelli non mi infastidiscono in un altro modo, posso continuare a spiare. E io che cosa dovrei fare, secondo lei? Gli dica di smettere. Vada a capire chi sono, veda di capire chi sono e perché si comportano in quel modo. Li dissuada. Io non ne posso più. Anche se i carabinieri la pensano diversamente, secondo me la loro è una forma di molestia intollerabile. Se le venisse a chiedere di venire a casa sua e di constatare di persona, accoglie la proposta quasi con entusiasmo. Che questa storia degli spioni sia una variante femminile della collezione di stampi cinesi, un sistema per allettare in casa uomini ingenui per poi... No, no, decisamente no, questa non vuole attentare alle mie inesistenti virtù. Dico, ora vado a casa mia a riporre la spesa, ma se mi dice quando potrei passare da lei, fra mezz'ora le va, così le darò anche un anticipo. Ottima idea, penso. E intanto dico però, d'accordo, chiamo la cameriera, vorrebbe pagare lei e invece pago io, sia pure precisando, poi pagherà lei lo stesso. In che senso? Nel senso che questa sarà la prima spesa che le addebiterò. Ci lasciamo molto compitamente, diretti ognuno verso il proprio frigorifero. Basta, il resto... Direi che questo saggio dell'ironia con cui è scritto, sono scritti questi racconti, è veramente stato straordinario. Intanto perché ci ha dato un'anticipazione, ma soprattutto si capisce la normalità di questo Barlone, cioè questa capacità di aver creato un personaggio da parte di Umberto che è assolutamente normale. E noi lo seguiamo in tutti i suoi ragionamenti, il suo andare al supermercato, i problemi col colesterolo, così senza, come se ci vedessimo nello specchio o vivessimo noi dentro. E questa, lui all'inizio ha detto, ah ma io sono, come si dice, il fratellino piccolo di Chandler, non ho nessuna velleità letteraria, però se non è questa capacità di scrittura, mi chiedo cosa sia la capacità di scrivere, Umberto. Ah, sì, ma non puoi chiederlo a lui, un modesto... Lo so, è modesto. E tra l'altro io vorrei ricordare, fra le tante cose, tanti premi che Umberto ha ricevuto, proprio le prime due novelle di Marlowe, le abbiamo mandate a un premio, noi non sapevamo niente, nessuno sapeva niente, e ha vinto per due anni consecutivi, vero? Sì, si chiama Esperienza in giallo, che lo fanno a Fossano, in provincia di Cuneo. Ed è uno dei pochi premi letterari che non chiedono per partecipare di dargli dei soldi, perché allora e allora ho detto vabbè proviamo, e mi è andata bene per due anni di seguito, e allora ho detto vabbè, allora queste prime due, che sono poi dopo le prime due del libro, ne attacchiamo altre sei e facciamo qualcosa di più consistente, Poi se va bene si può, arriva il momento in cui uno, dopo aver scritto tantissimo per gli altri, io tutta la mia vita, io ho cominciato a scrivere che avevo 16 anni per i giornali, io ho voglia di scrivere per te stesso, che è un modo di dire balordo, perché nessuno scrive mai per se stesso, scrive per se stesso perché lo regano anche gli altri, però un qualcosa di tutto mio, di qualcosa non commissionato da un editore, da un direttore di giornale, da quel che è, ma... C'è anche la mia professione lì dentro, nel senso che non ho mai tempo per scrivere una cosa lunga, e sono dei racconti cuciti assieme da un personaggio fra una traduzione di un libro e l'altro. A proposito di Umberto Mendini, traduttore, tu nel 2001 hai vinto il premio Grinzane Cavour, che non è, insomma, voglio dire, per dare la misura della grandezza come traduttore di Umberto. E mi incuriosisce questo passaggio dopo aver tradotto per tanti anni i libri degli altri, il desiderio di scriverne uno tuo, non credo che sia solo per riempire i vuoti tra una traduzione e l'altra. No, fa parte è una questione caratteriale, direi. A me piace sfidare me stesso. Cercare di dimostrare a me stesso che sono capace di fare un qualcosa. È una cosa che risale ormai a tanti anni fa. Negli anni 70, dopo aver frequentato tantissime librerie e aver visto che sono piene, spesso e volentieri, di veramente straordinarie sciocchezze, ho detto, ma com'è possibile che tutti riescano a scrivere un libro? Allora provaci anche tu. E io allora scrissi un libro. trovai il modo di farmelo pubblicare, me lo pubblicò una bella casa editrice, però l'ho pubblicato con uno pseudonimo. Allora i giallisti italiani non esistevano, erano pochissimi o erano poco quotati, e quindi lo fermai con uno pseudonimo che si chiamava Leonard W. Stark. E stava, ho venduto questo 3-4 mila copie. Come si intitolava? Un pacco a Budapest. Bellissimo, ah, sì, l'ho detto. Bellissimo, strepitoso. Un pacco a Budapest, un giallo bellissimo, magnifico. Bello. Certo che l'ho letto. Io gliel'ho dato a un certo punto ad alcuni, l'ho fatto leggere, perché poi avere un risponso. Però è rimasto lì, è rimasto solo. Quando sono andato adesso in pensione e avevo un pochino più di tempo, ho detto vabbè, proviamoci di nuovo. Tant'è vero, questo lo posso dire, uscirà in autunno un altro libro mio, con lo stesso editore, che è una cosa completamente diversa, con la quale mi giocherò tutto quel poco di simpatia che mi sono acquistato col Marlowe, perché sarà un romanzo umoristico. E scrivere qualcosa di umoristico si sbaglia quasi sempre, come quando si racconta una barzelletta. Ci sono 5 persone che ti capiscono, i 5 rimangono seri e ti scoraggiano in maniera più totale. Vedremo come va. Solo le do subito la parola. Parliamo un attimo della collana di questa casa editrice. Questa è una collana che loro hanno inventato a Roma, questa Robin, che si chiama I luoghi del delitto, e hanno cominciato con alcuni testi francesi, ambientati nella provincia francese, e poi è venuto dietro che praticamente in mezzo a Italia c'è qualcuno che scrive ambientando queste storie nelle località italiane. È stata una buona idea, una collana che va, non è tanto nota dalle nostre parti, l'editore è romano, però ha un suo vasto giro nell'Italia centrale e meridionale, gli va bene, contento lui, contenti tutti, a me va bene così. Il signore ha detto che voleva fare una domanda, ho capito male? No, lei voleva fare solo cacchini. Ah, io? Sì, vabbè. Ah sì, no, io ero collega di Umberto Gandini 50 anni fa, alla tua Alge, 50 anni, 40, 30, tanti, tanti, 20 insomma, no? Beh, non esiste anche tu, no? è un uomo che io ero un giovane cronista, proprio giovanissimo, e ho scritto Trasloco con 2 C. Lui che aveva la scrivania alla mia destra, mi ha ripreso con un'aria molto seria e mi ha chiesto se sono scemo, no? Trasloco, come fai a scrivere con 2 C? Cristo, aveva perfettamente ragione. Direi di sì. E io che ero giovane cronista, di fronte a questo Umberto Gandini che era medagliato, pieno di medaglie, ho dovuto ammettere che aveva perfettamente ragione. D'altronde l'italiano insegna che trasloco si scrive con una C sola. Io questo me lo ricordo, tu no di sicuro, ma io sì. Vabbè. Detto questo, vorrei chiederti, hai partecipato per caso al premio letterario Città di Bolzano? No, mai. Mai? Sono allergico, non è una questione di allergia, vorrei spiegarlo perché sembra una forma di presunzione. Io ho una paura tremenda del provincialismo. La dimensione provinciale è una dimensione molto bella se ha respiro, però se è chiusa dentro di se stessa mi fa paura, mi dà fastidio. E allora io preferisco, essere il primo a Laives che essere il sesto che a Bolzano, ecco. Sì, d'accordo. Ma anche il tuo famoso Marlowe, come vogliamo chiamarlo, è un personaggio che svolge la sua attività qui. Sì, qui. Però quindi sei legato per terra. L'editore è andato a cercarlo a Roma. Sei legato per terra. Non l'hai fatto lì a Firenze, a Roma, a Napoli. No. Quindi, di conseguenza, tu dichiari di non aver partecipato al premio mai. Città di Bolzano. Qui localmente non ho mai partecipato a niente. È che io ho stravinto. Bravo! No, volevo informare la gente. La popolazione. Io invece vorrei... Quando l'ha fatto? Vorrei chiedere a Umberto, ma questa passione per il giallo... Non c'è niente qua. La passione per il giallo che ci accomuna e accomuna tantissimi. In te da dove nasce? Dalle estati di vacanza a Merano, fra un anno scolastico e l'altro. Io ho fatto tutte le scuole medie, inferiori e superiori a Merano prima di venire qui a Bolzano. E lì a Merano c'è una biblioteca che si chiama Dante Alighieri. E io, quando ho finito le scuole, andavo lì, andavo a prendere un libro la mattina, lo leggevo nell'arco della giornata, lo riportavo la sera. E il bibliotecario, che si chiamava, era il cavalier autore, si chiamava autore, aveva un figlio prete, mi ricordo. Cioè, il bibliotecario si chiamava autore? Sì, si chiamava destino. Sì, a un certo punto ha cominciato a dire, non puoi prendere due libri al giorno. E gli dico, insomma, li leggo in fretta, cosa devo fare? Ecco, lì ho cominciato a leggere i gialli durante queste estati meranesi. Allora noi eravamo una famiglia piuttosto numerosa, non è che andavamo in giro in vacanza, stavamo a Merano. Autori preferiti di gialli, parliamo di gialli. Tutti, io li ho letti tutti, io non posso dire di avere degli autori preferiti, è una cosa con la quale litigo ogni tanto con mia moglie, io non faccio mai classifiche in queste cose. Lei invece mi dice, preferisci questo o preferisci questo? No, non c'è questo. Onnivoro. Io giuro, e l'ho pensato prima, perché ogni tanto sulle mie primogeniture sono molto geloso. L'ho letto ultimamente attribuito a Umberto Eco. Io riuscirei a divertirmi leggendo l'elenco telefonico. In mancanza di altro mi va bene anche quello. E lui ha fatto un libro sulle... su questo cose. Riuscirei a fare anche questo. E saltabecco molto, saltabecco moltissimo da un genere di lettura all'altro e da un paese all'altro. Di solito faccio così, come sono un cattivo mangiatore, nel senso che non sono capace di mangiare tanti, di pizzicare qua e là, o mi mangio un bel pezzo di pesce, o una grande bistecca, così. Io mangio, leggo di fila 12 libri gialli americani, poi mi fermo lì e leggo 6 italiani, non giallisti, dei narratori. Poi mi fermo lì e passo da un'altra parte, facendo molta confusione, oppure leggo teatro. Però, diciamo, nella letteratura si è andati anche, chi ama il giallo è andato un po' per compartimenti, no? Per i grandi americani, e poi Agatha Christie, e poi i francesi, e poi il Mediterraneo, perché è arrivato Camilleri, è arrivato Montalbán, è arrivato Izzo, Marsiglia. Adesso, da qualche anno, c'è la Scandinavia. Questa grande scoperta, la Scania, i giallisti sono della bravi, Spezia. Perché sono bravi, vedi, c'è una cosa, che la letteratura gialla non è mai stata molto quotata, è sempre stata considerata un genere inferiore rispetto alla grande letteratura. Io non so se questo sia vero o non sia vero, è la stessa discussione che si fa a proposito dei film, se i film di serie B siano peggio di quelli di serie A. Certe volte sono dei film di serie B che non solo durano più a lungo, ma trovano degli... Ecco, i libri gialli, per cui uno prova quasi, se ha una certa preparazione culturale, se ha fatto certi studi, esita a comprare un libro giallo. Io ricordo il mio professore di storia dell'arte che li leggeva solo in treno, perché a Merano non voleva farsi vedere con i libri gialli. No, anche perché una volta i libri gialli erano gialli e si vedevano. In nessun paese al mondo li chiamano gialli, da noi prendono il colore della copertina, della collana, della Mondadori. No? Però del resto Sciascia raccontava che ha conosciuto il libro di Montalbán. Sì. E in treno da Milano alla Sicilia, Mondadori, perché la parola sì, sono libri che si leggono, si possono leggere in treno, certi libri che non si possono leggere in treno, specialmente oggi perché c'è sempre la gente che telefona, sono arrivato a Verona, adesso sono arrivato a Trento, non devono sempre telefonare e raccontare. Ora un libro giallo si riesce a leggere, un libro di maggiore impegno in quelle condizioni lì è più difficile leggerlo, ma comunque ecco, una volta i libri gialli erano considerati letteratura di serie B. Oggigiorno stanno acquistando qualità, stanno acquistando livello e apprezzamento, vengono recensiti anche da autori importanti, ma io non farei delle classifiche in questo genere, è bello quello che piace, in letteratura come in arte, come in musica, è bello quello che piace. Ecco. Comunque io ho notato che negli ultimi anni, quando parlo di gialli non la finirei più, e ho notato negli ultimi anni che i gialli vengono scritti da persone di grande cultura, che fanno anche delle altre cose, cioè c'è l'archeologa francese che scrive i gialli, la docente di letteratura classica, di storia dell'arte in Spagna, o il grande avvocato, o comunque docente, sembra quasi che Giallo sia un po' come te, un modo per lasciare un'attività per quanto importante, chiudersi un po' in se stessi e raccontare qualcosa. Quindi non c'è più, diciamo, il giallista di professione, ma c'è tanta gente che si affaccia magistrati, cioè gente che fa dei lavori e che poi scrive gialli anche di successo, mentre una volta c'era il giallista tout court e basta. Ci sono 1000 giallisti di portata mondiale. C'è qualche domanda? Qualcuno che vuole chiedere? Ci fermiamo lì? O ci facciamo leggere? No. Volete che vi faccio leggere un'altra parte? Volete un'altra piccola paginetta? Deliziosa? Come? No, il finale del giallo no. No. Qualche altra parte? Il finale del giallo ci opponiamo. La ringhe rossa, no? Proviamo a qualche pagina ancora, almeno fino a un certo punto, poi ve la racconterò. Ah, insomma, perché 2 anni sono lunghi. Ecco, no, perché uno si incuriosisce, no? Mezz'ora dopo, puntuale, raggiungo casa sua e da sotto osservo l'edificio di fronte, dall'altro lato di una via non troppo larga e non troppo trafficata, e parecchio più malandato degli altri palazzi lungo la strada, oltre che più basso. I muri sono scrostati in più punti. Su una parete qualcuno ha scritto in rosso il suo entusiasmo per il Milan, ma uno juventino lo ha corretto in verde. Il piano superiore è fatto a mansarda, con delle finestrelle basse, larghe e incassate, che sono in effetti più o meno l'altezza del quarto piano di rimpetto. Non sembrano le finestre di un appartamento, sono tutto sommato troppo piccole. Sbircio attentamente, ma non vedo spuntare binocoli o cannocchiali. Per essere sincero, non ne scorgo neppure i vetri, ammesso e non concesso che ci siano. Adesso, dal mio punto di vista, cioè dal portone della casa di lei, quelle aperture sul tetto sono ridotte a fessure. Suono il campanello accanto alla scritta Refatti e quasi subito un gracchiante cicalino mi apre il portone. Localizzo l'ascensore, lo chiamo, entro e salgo. È lì che mi aspetta sulla porta di casa. È un'impressione dettata dalla mia inguaribile natura di galletto, o sia apparecchiata un po' meglio per me. Se non altro, non è più infagottata nella palandrana marroncina. E lì dove al supermercato non aveva visto altro che un qualcosa che assomigliava al mare piatto di Lignano Sabbia d'Oro nei momenti di bonaccia, colgo ora ondulazioni modeste, ma sempre meglio di niente. Venga, si accomodi, mi fa. E io penso invece, ora mi dirà di non far caso al disordine. Era di puntuale, non faccia caso al disordine. In effetti non c'è nessunissimo disordine, chissà come definirebbe quello che c'è nel mio minuscolo bilocale, con cucinino e mini bagno quando per pigrizia non lo rassetto per un paio di giorni. L'arredamento è modesto, vecchiotto ma di buon gusto. Con ninnoli sparsi sui mobili e a far la guardia a un imponente televisore piazzato fra 2 finestre e davanti a un divano. Le finestre sono schermate da tende. Guardi lei stesso, mi intima. Mi avvicino a una delle 2 finestre, scosto la tenda, la cima di un abete non mi impedisce di vedere le finestrelle basse e larghe del tetto della casa di fronte, dall'altra parte della strada. I vetri sono chiusi e non c'è nessuno che spia. Vigliacchi, fa lei, si sono tirati indietro, o forse hanno visto che lei entrava nella casa. Sarà, ma il dubbio che questa veda lucere per lanterne sollecitata da un eccesso di fantasia e dalla frustrazione della moglie abbandonata dal marito che le ha anteposto le più giovani polpe di una lieva mi si prospetta di nuovo con una certa prepotenza. Guardo ancora, immobile. Poi mi abbasso sino a portare gli occhi appena al di sopra del davanzale. Mi rialzo, mi defilo di lato, prima a destra, poi a sinistra. Che cosa fa, vuole sapere? Ho controllato che non ci siano dei riflessi che possano far pensare che... Io non penso, io quelli li ho visti, rivisti e stravisti. Quando con maggiore frequenza? A tutte le ore, del giorno e della notte. Di notte sono capace di restare lì per delle ore. Io mi impongo di non farci il caso, di vivere la mia vita come se non ci fossero. E quindi ormai guardo di là il meno possibile, anche per non dargli soddisfazione. Ma le assicuro che la sera erano in 2 che spiavano con i binocoli da quella finestra, lì sulla sinistra. E la mattina dopo, quando mi sono alzata, c'erano ancora. Ma non avranno visto niente. Se gli tiene le tende accostate, le saracinesche abbassate e le luci spente, cosa vuole che spingano per tutta la notte? Forse guardano le stelle. Ma quali stelle? Se le dico che tengono i loro strumenti puntati sulle mie finestre. Sopra di me ci sono altri 2 piani e da quelle finestre così incassate non potrebbero guardare in su. Dovrebbero uscire sul tetto. Ha provato a chiedere ai suoi inquilini di sopra e di sotto se credono che io sia matta. forse non hanno tutti i torti. Continua, il fatto è che dai loro appartamenti quelle finestrelle di là non si vedono, o si vedono solo pochissimo, non abbastanza. Ci sono le sporgenze del tetto che glielo impediscono, oppure l'angolo di inclinazione, non so, se sapesse che amarezza sentirsi giudicare una mente calda. Le farò qualche altra domanda, tutte le domande che vuole. Questi tizi che la spiano, oltre che binocoli e cannocchiali, avranno anche delle facce, no? Li avrà mai visti? Quasi per niente. Dietro le lenti degli strumenti si intravedono solo ombre, sagome indistinte. E non li ha mai incontrati per strada, per esempio. E come potrei dirlo se non li conosco? Ho guardato tutti quelli che uscivano dalla casa di fronte, ma sono gente comune, qualsiasi. Alcuni li vedo da sempre, si può dire. Dopo un po' d'anni ci si saluta, per fine, anche se non abbiamo mai scambiato nemmeno due parole. Altri vanno, vengono, molti sono giovani, forse studenti. Ma da quanto dura questa storia delle spie? Da quasi 2 mesi. E fra gli inquilini di là, incontrandoli per strada, ha notato di recente facce nuove, sospette, qualcuno che nell'incrociare lei sorride sotto i baffi. Ma che? Si è informata per sapere chi abita nel sottotetto. Certo, non ci abita nessuno. Ma allora? Di là, come qui, come da me del resto, non c'è una portineria. Ho domandato a una signora che sta al piano rialzato e che incontro spesso a messa, la domenica. Mi ha detto che nel vecchio stabile c'è un continuo via vai di inquilini, specialmente di ragazzi. Al piano superiore due appartamenti sarebbero addirittura una specie di comune, abitata anche da parecchi giovani che ci starebbero in subaffitto o accampati, ma nel sottotetto non ci sta nessuno, è una soffitta disabitata, pare. Fantasmi? Senta, o parliamo seriamente o è meglio che tronchiamo subito. D'accordo, sa che gli dico, vado di là a tentare di risolvere subito il problema. Mi muovo deciso verso la porta dell'appartamento, abbasso la maniglia e mi ferma un urlo, beh quasi un urlo, ma no, vengo a vedere, eccolo. Torno velocemente sui miei passi, mi avvicino alla finestra, guardo sul serio. Da una delle finestrelle basse di rimpetto spunta un binocolo, impugnato da quella che da dove sono io è solo un'ombra nera dai contorni incerti. Sembra che guardi me. Visto, fa lei trionfante. Sì, non è pazza, è già qualcosa. I pazzi, semmai, stanno dall'altra parte della strada. Posso aprire la finestra? Chiedo. Faccia, faccia. Deciso a darle la dimostrazione di che cosa vuol dire avere un maschio energico in casa, la spalanco, mi sporgo, comincia a agitare le braccia in direzione del binocolo come se fossero due tergi cristalli incrociati, ma quello che lo impugna se ne straforte, come se non ci fosse. Allora ritiro il braccio sinistro, lo punto sul davanzale e con fare intimidatorio muovo quello destro come se volessi cacciare una farfalla, svolazzante a mezz'aria. Assumo anche un'espressione feroce che lui, con quelle lenti che mi punta addosso, non può non vedere. Risultato? Nullo. Seccatissimo, stringo perciò la mano destra a pugno e la agito minacciosamente. Le lenti non si spostano di un millimetro. Mi viene voglia di mostrargli la lingua, ma poi concludo che sarebbe poco dignitoso. Sono, direbbe Chandler, il papà di Marlowe, nervoso come uno che non riesce a trovare il gabinetto. Abbiamo chiuso su Marlowe. Va bene, allora se non ci sono altre domande, chiediamo che ecco, aspettiamo che dia alle stampe questo prossimo. E nel frattempo però leggeremo quello umoristico che esce. Dovrebbe uscire in autunno. Possiamo dire fine il titolo o è una sorpresa? Non ci sono, è una lite, non una lite, una discussione. Questo editore ama i titoli lunghi. Questo mio libro deve chiamarsi solo Marlowe, e invece lui l'ha voluto così lungo. Quindi. Solo il sottotitolo è rimasto, un romanzaccio, cioè non un romanzo, è un romanzaccio. Benissimo. Grazie mille della serata. A romanzaccio. Ciao Umberto. Grazie. Ciao. Ciao Massimo. Grazie.